Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carla Oliva. Buongiorno, bentrovati. Il programma prevede di parlare di sospetti, di lime celebri, della sindrome di tersite, nonché di sorbetti alla vaniglia.